Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Una nuova settimana che comincia con il consueto appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto intanto da parte mia, Francesco Galante, a voi cari ascoltatori di Blu Radio Veneto, ma anche un saluto al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, io non so quanti anni hai tu, ma non ne abbiamo né io né te 65. Perché dico questo? Perché sembra che insomma quelli che se la passano meglio nel nostro caro vecchio stivale siano le persone di una certa età. Eh sì, secondo un'indagine fatta dai Censis è emerso come girare l'economia oggi sono sostanzialmente gli anziani. Perché nel periodo 2009-2014 gli anziani, il capofamiglia anziano, ha visto incrementare il proprio potere di acquisto di circa 1.200 euro rispetto a un giovane capofamiglia di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Quindi parliamo di un divario che sì, si è superato, ma si è anche abbastanza diversificato. Questo non perché l'anziano prende più soldi, ma perché certamente il capofamiglia giovane rispetto ai contratti di qualche anno fa ha perso sensibilmente grosso potere d'acquisto. E la cosa che di cui voglio focalizzare l'attenzione su questa indagine è come un anziano su due aiuta economicamente i figli e i nipoti. Quindi su una platea di oltre 13 milioni di over 65, oltre 7 milioni di anziani contribuiscono con i propri soldi al benessere della famiglia, di figli e di nipoti, anche proprio finanziandoli, aiutandoli a pagare mutui, bollette e quant'altro. È una cosa, vorrei dire quasi imbarazzante, nel senso che uno che è giovane dovrebbe costruirsi la famiglia e cercare di fondarla su basi solide, invece si trova assolutamente in difficoltà nei confronti di chi invece ha già costruito la sua famiglia e anche magari i figli sono diventati già adulti e stanno andando per la cinquantina. Purtroppo sì, però è un fatto che ormai a tutti c'è davanti agli occhi e credo che chiunque abbia dei nonni e dei figli ormai si è reso conto come l'aiuto dei nonni diventa sempre più fondamentale per sopperire le proprie esigenze. Tante volte non sono proprio i soldi che ci danno come mancetta, ma sono anche gli inviti a tavola che ci fanno spesso, e comunque bisogna dire che i contratti rispetto agli ultimi anni sono veramente dei contratti che questi giovani continuano a sottoscrivere sempre in un'ottica di ribasso rispetto a quelle che erano salvaguardie che insomma eravamo abituati e avevamo conquistato negli anni 80 e primi 90. Però premesso questa cosa e continuando a commentare i dati, bisogna dire che gli anziani oggi sono anche anziani che comunque amano frequentare ristoranti, cinema, teatri, musei, guidano l'auto, viaggiano, hanno anche addirittura voglia di lavorare, quindi incrementano anche il loro reddito. Quindi possiamo dire veramente che gli anziani oggi fanno girare l'economia. Però è simpatico come il 40% di questi anziani hanno dichiarato di essere allergici alle carte di credito e come il 54% di questi anziani sono abituati ancora a utilizzare esclusivamente il contante. Mi ritrovo anche con i miei familiari con queste cose che hai appena detto, soprattutto sul bancomat, su queste cose. Il contante è sempre un'altra cosa per una certa categoria d'età. Sì, e poi ormai diciamo che poi gli anziani organizzando la propria vita su quella che è un po' la propria pensione riescono anche a organizzare un po' i loro risparmi e le loro esigenze. La difficoltà e quello che è il dato che emerge da questo ragionamento è come il capo famiglia giovane di età fino ai 34 anni invece si trova in difficoltà e come rispetto all'anziano appunto il potere di acquisto è fondamentalmente crollato in questi ultimi anni, perché dobbiamo dire che sì, ci sono da una parte questi contratti che certamente sono ormai propongono paghe in lire e non più in euro, ma ci sono anche contratti che ormai sono sempre più precari, ed è di quelle che sono le ultime riforme del lavoro introdotte e che quindi permettono anche poca flessibilità nel mercato e tanti rischi che inducono molto cautela, soprattutto a chi ha mutui, chi deve fare dei finanziamenti o chi deve anche allevare dei figli, che certamente anche questi incidono molto sulle proprie finanze familiari. Certo, e anche queste cose pesano su quella che è la costruzione della famiglia, no? Proprio con il matrimonio, tutta una serie di spese che magari si rimandano a tempi migliori. Noi sappiamo che oggi l'Italia ha un tessuto sociale che è fondamentalmente basato sul contributo che gli anziani danno alle coppie giovani. Certo è che queste ultime riforme, in particolare quella della Fornero e quelle che stanno discutendo in quest'ultimo periodo della nostra storia, questo aiuto lo stanno mettendo sempre più in difficoltà, perché è vero che se oggi parliamo di anziani e una volta comunque si poteva pensare di arrivare alla pensione a una certa età, anche in fondo una prospettiva meno magari lungimirante, oggi pensare di arrivare a una pensione non più ai 54-55 anni ma a 66-67, sicuramente ci troveremo fra qualche anno a riconsiderare, secondo me, questi dati e queste cifre e anche questo apporto che i nonni possono dare ai figli o ai nipoti. Staremo a vedere, insomma, come andrà la storia di noi italiani. E adesso ringrazio e saluto il presidente Carlo Garofolini. Ricordo www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie Carlo. Io ringrazio te Francesco e ci risentiamo presto. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.